Sta male, non me ne fosse un cazzo. Se finisce all'ospedale, non me ne fosse un cazzo. Ti passo sopra con l'auto, non me ne fosse un cazzo. Non me ne fosse un cazzo, non me ne fosse un cazzo. Tu sei morta per me, non me ne fosse un cazzo. Tu sei morta perché, non me ne fosse un cazzo. E quando mi hai lasciato è morta una parte di me. Vuoi una parte di me, vuoi una parte di me. L'auto al collaudo, collaudo i copertoni sulla tua faccia, sull'asfalto. Sgaso, che vuoi che faccia un po' di cio? Campione olimpico in sgommata, manco fossi al cio. E al processo il mio avvocato sosterrà che al momento dell'avvenimento ero incapace di intendere. Volevo uccidere sul momento, al tempo dei fatti. Da me che cosa puoi pretendere? Io decido che uccido, ma chissà chi sta di là. Io ricordo lo scorso disco, ma poi sono ritornato come Cristo. Sta male, non me ne fosse un cazzo. Se finisce all'ospedale, non me ne fosse un cazzo. Ti passo sopra con l'auto, non me ne fosse un cazzo. Non me ne fosse un cazzo, non me ne fosse un cazzo. Tu sei morta per me, non me ne fosse un cazzo. Tu sei morta perché, non me ne fosse un cazzo. E quando mi hai lasciato è morta una parte di me. Vuoi una parte di me? Vuoi una parte di me? Nell'aldilà stavo bene, davvero, davvero stronzo. Mentre Daley Alama mi ciucciava il pene. Il ruolo che conviene rispetto ai giochi di ruolo. L'ilarità della situazione perviene. Viene, sbroda nelle vene. Brodaglia sintetica, ma più che in etilica. In etica, eticamente scorretto. Corretto nel resto, come il caffè del resto. Presto il solito sfigato. Il quinto disco è cominciato. Il mio campo è concimato di spermatozoi, di crema poi in goi. Sta male, non me ne fosse un cazzo. Se finisce all'ospedale, non me ne fosse un cazzo. Ti passo sopra con l'auto, non me ne fosse un cazzo. Non me ne fosse un cazzo, non me ne fosse un cazzo. Tu sei morta per me, non me ne fosse un cazzo. Tu sei morta perché, non me ne fosse un cazzo. E quando mi hai lasciato è morta una parte di me. Vuoi una parte di me, vuoi una parte di me. Non ho più idee, non lo concepisco. Buttate al vento come un evento. Avanti Cristo nel dopo, cosa ci sarà mai stato dopo? Come quando la scopo, ho raggiunto il mio scopo. Allora giunta è giunta l'ora, come in giunta comunale. Se finisce all'ospedale, non me ne fosse un cazzo. Se Outhammer sta male, se Outhammer sta male, non me ne fosse un cazzo. Se finisce all'ospedale, non me ne fosse un cazzo. Ti passo sopra con l'auto, non me ne fosse un cazzo. Non me ne fosse un cazzo, non me ne fosse un cazzo. Tu sei morta per me, non me ne fosse un cazzo. Tu sei morta perché, non me ne fosse un cazzo. E quando mi hai lasciato è morta una parte di me. Vuoi una parte di me, vuoi una parte di me. E dal giorno in cui tu non mai risposto più, io non t'aspetto più, non ti rispetto più. Ma che cos'è il rispetto? Il rispetto sussiste solo se è reciproco, solo se è reciproco. E dal giorno in cui tu non mai risposto più, io non t'aspetto più, non ti rispetto più. Ma che cos'è il rispetto? Il rispetto sussiste solo se è reciproco, solo se è reciproco. Solo se è reciproco. E ad una mancanza di rispetto rispondo con una mancanza di rispetto. E il paradosso è che è nato tutto da una mancanza, appunto. Lo appunto sul quaderno dei ricordi a mo' di appunto. È il ritorno dell'assassino psicopatico sulla traccia, appunto. Il calma riporta al punto di partenza. Al punto di partenza. Ho iniziato a guardare le persone a cui tengo pensando a ciò che le ucciderà. Qualcuno per il cuore, qualcuno per il fegato, qualcuno strangolato, strangolato, strangolato, strangolato, strangolato, strangolato, strangolato, strangolato.